mai sei in giro? No. Abbiamo preso la gente esattamente. Oggi non si lavora. Quando c'è il vero non si lavora oggi? Oggi siete in ferie. No, ma poco fa mi c'era cosa, c'era Antonio e... come si chiama? Ma... Salvatore. Positivo, già ti ho sentito, stavo facendo cose ascoltando. Sempre e te ne conta già. E cosa vuoi che racconti? Sento un giro, so, più che altro. E tu? Sono qua al computer, guardando un film e porno. E stai cercando il film di cosa, di... come si chiama? Di Belen? No, il film è... oggi cazzo si chiama, vai, sto scherzando. No, stavo guardando al meteo. Guarda che c'è il film di Belen nel computer, c'è poco bello già. Ah, non ci credi? Posso già visto lassù. Ah, non l'ho ancora visto, ma me l'ha fatto vedere stamattina i negri la cosa. Il DVD. Fatto vedere? Il DVD me l'ha fatto vedere stamattina i negri. C'era uno dei due figure in vendita a 5 euro. Senti, mi ha detto i soldi stanno facendo, i soldini. Alla faccia di lei. Ma e ce la possiamo fare anche noi già. Già fa, siamo. Si va a appartamento più, dobbiamo un casino. E guadagnati. Io di tutto c'è nel computer, fuori il gambura. E di tutto, ma ci sono anche molti virus. Io per quello basta prendere la pastiglia. No, i virus sono praticamente, se non c'è il coso, ti ammazza, cioè ti crepa il computer. Mia, il mio computer non mi attacca il virus perché è sempre spento. Figurati, ma l'ha attaccata alla calcio sippe. Figurati, tu manco penna, c'è nulla, non c'è niente. Chiappa, non ti ho capito perché stavo chiedendo... una cosa. Perché si passa di radio a volte? Perché mi allontano il microfono e sono passo di radio. Ora vedere adesso. Adesso già va meglio. Questo microfono ti devo avvicinare, se no non si intende, no? È quell'apparecchio normale. Ma già si sente che non è normale. Scusavo il bisogno. Ma... però no, c'ho il computer davanti qua e l'apparecchio dietro, ma non so che fai dentro, guarda. Aspetta un attimo che vengo subito, mi stavo chiamando. Gaffa, fai. Noi già ne daremo fastidio, penso. quanto arrivo in FM? 0,40 in FM qua. Abbastanza buono, eh? Sì, bello, sì. Allora, Pupo. Oh, yeah. Sono stanco, ragazzi. Stamattina ho fatto un sacco di cose arretrate. E c'è golfo. Tutta la settimana già lo sai che lavoro sempre, sempre, sempre. Sveglio presto. E già lo so. Il lavoro mobilita l'uomo, la rende vergine. Ah, poi ho detto che non entra nessuno, mi c'è golfo. Ha detto, no, la buio, ho sentito tutto, detto, là, adesso mi trattengo 5 minuti, almeno un po' mi faccio una chiacchierata. Allora, almeno quello. Ma... mamma mia. Comunque, beh, un sacco di gente che ha vinta di ma chissà che cosa, vabbè, non fa bene nulla. Cosa di tutti i posti? Io non sto facendo niente adesso. Gli altri giorni invece ero da una cosa all'altra e passava l'ora. Ma sai cosa stavo facendo poco fa? Da mangiare calamari fritti. Chi cazzo calamari fritti? Questo? Li ho mangiati. È un pollo con le patate. Già va bene, già. Quello vuol dire che fame e appetito. No, vabbè, il pollo con le patate l'ho comprato direttamente. Il calamare li ho dovuti fare, invece, li ho dovuti fare. Tagliati a come un annelletto, impanati e fritti nella farina. So così tu li fai così. E poi l'insalata mangiato ne hai? Non sono amante dell'insalata, non ne mangio quasi mai. L'insalata ci vuole, che se no fa male mangiare così. È rarissimo che la mangi, ma proprio raro, ogni tanto. Ogni tanto le faccio un assaggino, se no... Cucina. Bisogna divertirsi in cucina ogni tanto, mia anche io, vado a cucinare. A fare qualche cosa, non tutto, ma qualche cosa, ogni tanto ce la combino. Ma non è sa fare cosa, Simona? Chi mi sa fare, Simona? Sì. Ma perché non ti metto io a cucinare? Ma preferisci fare il tuo, dai. Cava, cava. Ui, ui. Che paranoia oggi. Paranoia, sì. Cappa, cappa. Sì. Io posso fare un po' di tutto, so cucinare, lavare, tendere, abbiamo arrangiato tutto io. E c'è cucciù? Bello, sì, sono una bestia facendo. Allora bisogna fare un po' di sport ogni tanto. Oggi cucciù già lo so che va bene. No, ma che di matacapo. Tanto cosa vuoi fare? Vabbè, c'è lo credo. Meglio di niente. Ma stamane c'è la serie al bacio. Ho capito al bar? Casa tua. Ma sotto casa mia quando? Ieri. Ieri forse eri lì. Ah, oggi sto parlando. No, ma non ci sono andato oggi. Ero... sono sceso 10 minuti a mettere il baracchino a Giuseppe e basta in macchina. Quello che gli ho regalato, il Galax Flut. E sono salito subito su, neanche tanto sono al bar. Ok, ma... dico, ieri c'eri. Al bar? No, però non ci sono entrati, mi ricordo di non esserci entrato ieri al bar. Niente. Non ci vado quasi mai al bar di qua sotto, anche perché è caro, capito? Se vado al solito qualche circolo, se capita, se no vado alla ti piglio la birra direttamente dallo spio e me la bevo, capito, qua a casa. Poi con lui va alla bar qua, no? Ti massacra. Lo so. Devo ricercare il sangue. Molti vanno al circolo, vanno, ma sei tesserato o no? Poi c'è bisogno di andare a avere tesserata per me. Ma c'è il tesserico, li conosco tutti. E entro tranquillo per dire. Qua c'è un circolo già accadorati, non c'è neanche bisogno di tesserlo, visto che accetta tutti. Capito? Sì, vabbè, io voglio dire, pure io se vado qua mi conoscono. Ma non mi va a me di andare in circolo, dico la verità. Un casino, A parte che adesso la birra costa di più. Comunque, sia, come vai dallo spin, adesso c'è uno spin qua vicino a casa, e quindi le lattine costano 45 centesimi. Con 2 euro ne escono 3 o 4, quelle che sono 6 mi pare. La voglia che bastano tutto il giorno. Il KK. No, sono entrato, mamma mia, non mi piacciono quegli ambienti, perché dipende, tutto è un casino, sono un civile anche. Non sei così, c'è tutto lì con casino, si mettono a gridare, parli con uno non senti per niente, perché stanno tutti gridando, capito? Lo sai qua che c'è il bocciofilo, il bocciofilo c'è il sole lampiane. Io ci ho frequentato quel bocciofilo, ci andavo un bel po' di... quando ero in campagna ci passavo quasi tutti i giorni lì a bere una birra, ok, l'ufficio di collocamento altro. Passavo 5 minuti e pigliavo la birra e poi me ne andavo a casa. Visto, a confronto altri circoli organizzano serate, Giovannino Giordo, altri gruppi salsaresi. Sì, beh, ma serate non serve più a niente. C'è a certo storico che scende per qualche zimilata, così se vuoi partecipare, per dire. Fai le pizze, fanno a volte, ma carne, ma quella birra congelata, cazzo, è pericoloso per quella birra, ma sei scherzato, ti greba. Eppure qua nel Valle, nel Zimilate. Poi ogni anno lo sai cosa fanno, ci uniscono tutti e due i circoli e fanno arrostire a mangiare per tutti. Ma sempre la parte di rimettere, mica è gratis, non sono così scemi, no? Hanno, per dire, 200 persone, 10 euro ciascuno e si compra la carne, si cucina e più ti paghi il bene. Ma no, non è così, no. Non è così, no. Qua si riuniscono tutti e due i circoli. Mettono un tanto a testa e mettono a mangiare e bere per tutto il quartiere, non ti fanno pagare nulla. A certo tempo facevano così, davi la dalla parte per la carne e poi la birra te devi pagare da parte. Quelle cose te le devi pagare a parte, una birra a cosa, però a mangiare e bere, acqua, un bicchiere di vino non ti fanno pagare niente, la birra è a parte però, No, non te la danno. Quello ti sto dicendo, infatti. Se tu solo così, se bevi acqua non paghi, no, perché l'acqua costa poco. Anche un bicchiere di vino, un vinello, costa un euro, so che sia. Ma qua invece, non puoi a mangiare fettine, capocollo, salsiccia, panzetta, melanzane, se quelle cose sono, cioè, sono gratis. Ho capito, quindi ha voglia a divertirsi. So che anche l'associazione della Feroce dice qualche cosa per organizzare quella festa. Poi c'è il gruppo, c'è la musica, la zazzaresa, tende ma niente. Cantente, cantando, mangiando e sbronzando, sì. Poi quando a tornare a casa non c'è abiti vicino, perché fuori bisognerebbe andare in macchina lì. Signor del ragone, io già. Ah, ma se quante volte mi hanno invitato a me, cioè, centro storico, a rimanere a per pranzo, c'è una cena, non sono rimasto, anche perché l'ultima volta era qualche cosa e quindi mi è male, capito? è spostato in moto dopo qua. Ma siccome sono qua a piedi, se la piglia in culo. Per campo. Non piace molto a me il centro storico. Cioè, qua sto io molto meglio. Cioè, non ci andrei mai a abitare. Qua io sto molto meglio qua, però, cioè, ti dico la verità. Che è diverso, cioè, mi piace più la periferia a me. Cioè, centro di Sassari, mamma mia, ma anche non abitando al centro storico, anche abitando nelle zone tipo la zona dove lavoro io e cosa, ma non mi piace. Sì, beh, io ci vado lontano al centro storico così per farmi una passeggiata, per passare l'ora, per stare chiuso qua a casa tutti i giorni. Quando devo la birra poi me ne sacco a casa. Ma vabbè, no, se sono per quello, sto dicendo io abitare. Sono bagnisto, vabbè, a abitare non mi va tanto, è la verità. Abitare, ma cosa ne parla? Cioè, abitato una volta e ne ho le balle piene, stare lì. Così a fare la passeggiata va bene, ma abitarsi proprio non mi piace. Poi sono zone anche, che se c'è la macchina, non c'è parcheggio, c'è gente che si è comprato la casa in Chile, non aveva fatto altro. Non c'è parcheggio, no, non c'è nulla, cosa fai? Ti compri la casa lì. La casa secondo me deve averci tutto, deve essere anche in un posto dove c'è tutte le comodità, c'è la tua cantinetta, c'è tutto. Al centro storico il parcheggio non c'era mai, c'era sempre un casino tutti i giorni. Per metterci una macchina una volta non c'era posto. Senti, o fiago di culo, di niente, o di marocchini, o di tutto. Vedi, è pieno, pieno tutti i giorni. Di tutto c'è, cinesi, di tutto, No. Non sono zone che mi vanno tanto. No, non mi piace proprio. Bisogna andare a casa lì, capito? Cappa, sì, solo per passarci così, sì, ma per andare a abitare manco morto. Ma ce la fai, mi hai sì fuga. No, non sarà. Non va bene, non va bene, anche perché non stai bene, non c'è. Di sempre, cioè, Pompeo non è chi è? Cioè, di andare a so. Chi? A far culo tu. Antonio Grobbe. Antonio Grobbe, dalla macchina deve essere, dove stai andando Grobbe? 12 Grobbe, barrato. Qua sotto dico dove va anche oggi. Fritto è. Papà. Torna a chiedere. Ah, senti questa russa. Sta russando. Russa, bella russella. Accuditi. Accudire, accudire. Che ha detto accuditi, no? Che... Invece qua è bello. C'è il verde, c'è tutto. E si sta bene qua. C'è anche aereo che si sta bene, poi c'è vero. Ho tutto canto a verme in occhi. Ah, piace perché non c'è neanche tanto traffico, no? Per quell'aria pesante che c'è dentro il Sassari. Via c'è il traffico anche lì, c'è pieno di gente. Ma è diverso come posto, è diverso. Per me tutte le zone sono uguali. Questa zona ti manca a te a venire a abitare? No, lì non ce ne capitare io. Ti piace? No, mi piace, no. Mi piace abitare qui. Sto bene, non c'è traffico oggi. Anche qua non c'è traffico di nulla. Sì, dai, che sei stato tornato indietro, cazzo, avrebbero fatto una casa qua a posto di vista, se io tu pure ho detto a me, mi dai venuto qua. Perché non dobbiamo? Oh! Però però ti piace il Tugurio che veniva qua. No, che ce l'ho messo adesso, perché il Tugurio è qua. Si sta bene. Mi dà un po' di pelo qui. E pure i nonchi da me basta. Pure non le devo dimenticare una che. E sempre che ha il sorrisino quando mi saluta e cosa. E sta in questa zona, sai. Io voglio dire sì. Aspetta una seconda. Attenzione di Vulcano canale 10. Sono Antonio Grobbe. Chi è? Sono Antonio. Antonio Bombolo? Ah. E sono stato senza. Una volta so se lo conosci, uno che già te lo dirò come chi è, ma forse già riconosci adesso. Che sei andato da Fusaro, l'ha domandato, c'era un pesce fatto. Del pescio, per regolare la pressione del pescio. E dovevo so cosa vuole, è un pescio stato scelato. Poi io ne sentirai anche tu di cose che ti dicono. Oh, che sarà a me, cosa che ti dicono? Beh, con me l'ha fatto cazzo che ribatto, cazzo vedere. Cosa, ma a te proposte indecenti in cambio della, del coso te l'hanno mai fatto? Cioè dice al posto di pagarti la bombola come fanno gli idraulici? Ah, è mai successo. Perché gli idraulici molto spesso capita, capito, che magari vanno, aspetta, sto cambiando marcia, a casa di qualcuno che non li può pagare, allora pretendono di pagarli in natura. Ah, è mai successo una cosa del genere. Bene, ma oggi cosa sei in ferie, sì, cioè oggi è festa. Oggi è festa. Ma di Roger, perché molti negozi sono aperti, anzi. Almeno quelli di alimentari quasi tutti. E abbiamo qualche sera. Ma stai passando in zona, sai? Tipo, non ti ho copiato. Zona 6. Sì, K, sono... Sono in via... Via Sanzio. Via Sanzio? Ah, lo monti, sì. Quasi, sto arrivando in via Pascoli. Ma un po' come ci a passarmi vicino. Pagava, e Antonello dov'è? Antonello è andato un attimino, non lo so dove se n'è andato. A Pagava. Pagava. Io non sei riuscito a farti un giro. Sono qua a casa. Sai che ti sta mettendo... Poi un po' sta girando nuvoloso, strano. Abbiamo lavato le macchine, la nostra e quella da lavoro e basta, non abbiamo fatto altro. La pure il vapor. Papà, ma ve la portate dietro qual è il lavoro? Tipo, negativo, adesso abbiamo la macchina nostra, la punto. KK. Scusami un attimino, sto facendo una manovra, eh. Papà, vai fai. Chissà se riesci a individuarmi dopo la lampetta. Capa, eccomi. Fatto? Paga, adesso sono in rotatoria, sto salendo sul ponte nuovo. Ma stai risalendo? Capa, non so, sto salendo, ero giù al civico, sono al teatro civico, adesso sto salendo su... A QTH25. A cappa, dove vuoi dire a teatro civico? Devo prendere una cosa. Ah, ma che tu sei canterino, così è. Quello solo in questura lo faccio. Così è. O canterino, digli sì, come si chiama? Digli sì, l'indice. La pagava, no, ma non era per quello. Aspetta. Va. Eri in AM? Siamo in FM, siamo. Io ho capito, ho sentito uno in AM. Non lo so, no, chi è. Avandemo in AM, dai. Prendo un altro apparecchio e lo metto, che è più forte. Papà. Bombolino. No, chi? Bombolino. Ah, sì. Buonasera, comunque. Come in FM, per quello che non ti sentivamo. Ho detto, eccolo là, è un qua qua qua. Ah? Senti. Ah? Stai dicendo, Anto? Ma, Giuseppe. Ho detto, con chi stavi parlando? Con Antonio Grote. Eravamo in FM. Ah, K, ho capito. E dov'era, che zona era? Platamona. Ma è azzetti in Chibi, a casa della 25, stanno salendo. Ah, cappa. Ma adesso metto un altro apparecchio là che è più cattivo. Ehi. Secondo me qualche persona che vi sta guardando. io osservo, pagando un momento buono, venite già, tranquilli. Lo so, però purtroppo. Adesso vediamo cosa, come esce fuori, vediamo un po'. Noi aspettiamo un altro po' e vediamo. Tanto ci diamo da fare, tanto ormai abbiamo già sparso la voce, tutto quanto, capito? Tra camionisti, Porotores, Sorso, Senuri, Itili, perché ci sono i miei cugini a Itili, dunque abbiamo dato anche la voce lì, se in caso non la vedono a Itili, hai capito che sta lotto? È il capo. Troia, è un casino, è capo, c'ha niente. Pura, boh. Oh, yeah. E poi come ci riescono anche, infatti cercate di quella moto lì di non fare, cioè di fare un qualcosa che c'è di protetto, non di lasciarla così, metterci la catena, metterci uno stacca motore che non mette in moto manco se ti ammazzi. Se non lo fai tu, o di fare qualcosa se l'avessero fatto. Beh, un lavoro serio, dai. E vabbè, no, ma il fatto che questa cosa qua, tanto ce l'aveva il locomotore, capito? Solo che si è dimenticato di azionarlo, capito? Dunque, se no con il cavolo che sarebbe partito questo. No, ma vabbè, l'ha installato quando. Ma bisogna pensarci queste cose, cioè bisogna stare attenti. L'ha installato dopo che l'avevamo rubata l'altra volta. E beh, cazzo. L'abbiamo installata dopo che. Prima. Dopo che l'abbiamo ritrovata, capito? E dunque ci abbiamo speso una barca di soldi per installare questa cosa e dunque non è che sono sciocchezze, no? Solo per installare questa del blocco motore ci abbiamo speso la bellezza di 100 euro, hai capito? Non è che sia così da una cosa inutilmente, no? Solo Nicolo sa dove l'ha fatto mettere, hai capito? Solo lui lo sa. E dunque, ma solo, e ti sta dicendo, si è dimenticato di azionarlo questa cosa, hai capito? Se no con il cazzo che l'avrebbe portata via, perché non avrebbe messo in moto neanche se ti sparava, hai capito? Scappa, perché così li avrebbe trovati anche nel fatto. Ma però le cose bisogna ricordare, è come che tu gli dai all'altro la chiave in mano, la stessa cosa. Diciamo che è un po' colpa sua, perché se lui avrebbe inserito quello l'avrebbe trovato, sì. Anche io Putitini che avrebbe messo un bel tempo per metterla in moto. Beh, giustamente, ci ha fatto i cazzi, nei cazzi suoi veramente, che cosa gli avrebbe fatto finire il cazzo direttamente ai pilari, cazzo per cosa gli avrebbe troncato l'uscio e brisco. Ma se non altro non aveva buttato in moto, non se ne aveva inaugurata. Lo stanno facendo molti, neanche a quelli che assumono vecchie, anche molte macchine, anche qualche punto li stanno facendo mettere questi stati nascosti. E lo sa solo il padrone che lo sa dove accendere. E cappa, giustamente, tanto cosa vuoi dire, è un casino. Ma molte macchine hanno il codice, hanno il code, penso che sia anche la tua, così, non ricordo male, però qualcuna ci riesce, ma devi essere professionista a fatto nel mondo. Qualcuna ci riescono, perché sono un po' così. Allucinante, cazzo, allucinante. Ma tua chiave cosa c'è della tua code, la tua macchina? Capo. Che cosa c'è? Avanti. Pagava, eccomi. Quanto? Allora, ciao Giuseppe. Ciao, Anto. Io, bisogna tagliare le mani allo spazio. Santo, io passo. Passi, cosa passi, è passato il pomodoro che si... Ho passato la tele, passa lo crepo, lo crepo. Ciao. Prova ad andare poco, dai. Sono basso, lo sai. Buonasera a tutti, ben ascoltati. Beh, scucciti. Aspetta che sei stato comprato. Dove pigliate l'aria? Buonanotte. Aspetta un attimo, fatemi fare una chiamata. Attenzione Gigi Vulcano. Ciao Antonio, ciao anche Giuseppe. Ciao Claudio. Quanto ci hai fatto il sonnellino? No, stavo mettendo a posto roba qua. Adesso mollo tutto, ora mi colico. Mettendo brutta la giornata, non mi piace niente. Già lo so. Giornata gonfia. Ok. Dai, riprendete, allora ci sentiamo semmai stasera. Ciao a tutti. Via, ciao Cla. Ma qua ci sentiamo. Ciao, buon voli, ciao. Tutto ok. Allora, ti lascio ai tuoi compiti. Avanti Giuseppe. Di chi è questa mantova, queste due mantove appaiate che si vedono nella rotatoria che c'è per imboccare la bretellina? Dovrebbe essere di Mario Massa e l'altra non so di chi è. La una è di Mario Massa e l'altra è di Gio Maria Figa, hai capito? Qual è il dicendo? Sì, Maria. Che cosa, le gabinate da una e l'altra? Due mantova uno, perché c'hanno quattro radiali. Quella di gabinate da uno? Una era mantova turbo di Mario Massa. L'altra è la cosa, la mantova uno di... Non mi ha messo, diciamo. Senti, Mario Massa c'è la mantova turbo, la mantova 1 c'è la Gabino Antenna 1 che è di fronte a lui, e poi è anche fasciata quella di Gabino. Allora, Iara, è camera Witter, Bretella, sono ingresso sul 131, come sto arrivando? Pompo, che dammi un controllo, guarda lo smitter. 20, radio 5. Tu fai cosa di via, ma non è possibile, ecco un po' vedere questi pompe. Beh, se ho passato con Pugno, dai, è normale che fossi vicino a te. Dicevo, ma avevo da fare anche lì, mi era attaccato. Ma negativo, aspetta un attimo. Dile tu che per passare con Pugno ci vuole poco. Sei sicuro, c'è passato qui la sauscia. Cosa ti vai? Vai, che già è vero, vai, non ti ricordi che se ne sento sopra per fare l'antenna. Bravo. Sto disturbando, sto fuori il gioco. Ma tutto, questa comparsità di visore di Adri, dimmi. In tutto il mondo, Gio Antonello, buon pugno di turba, ragazzi. Tutti i civacchini, tutti camuffati, per carità di Dio. Vai, finisci, cosa camuffato, non hai mai toccato questo. Ma perché li turbi? Ma non esiste che devi disturbare, capito? Io ti attacco un chilo, vatti qua. Disturbo manco la radio FM, ma non ti vergogni. Non mi vergogno io, disturbare è bello. Allora, fate durare il rovescio. Chiaro, non disturbo manco io che ho l'antenna del televisore vicino, e l'antenna cioè sono appagliato, tra l'antenna del televisore e l'antenna del baracchino, disturbo io. Sì, c'è una centralina della fascia, non hai capito. Che ce la butto l'altra no, qua qui. Faccio schiattare. No, stavo dicendo, non disturbo io che ho l'antenna proprio vicino del televisore e disturbo il tubo. E sto usando 12 watt e sono a precisione accesa. Ah, comunque io qua disturbaccio perché non ho capito perché poi. C'è qualche problema di fondo lì, Antone. Lascia perdere, è impossibile che disturbi. Con quella radio è poi impossibile che disturbi. Anche con cosa disturbo qua, col 2009. Il problema è la centralina. Ciao! dopo sistemare il battitore c'è un cavo di 58 agganciato, capito, perché hanno fatto un sacco di casino qua, hanno pensato la parabola e quindi adesso mi sistemando di tutto. Mi ha occupato un tempo io gratis, non ho fatto pagare nulla a nessuno. Bravo, sì. Dai, vi saluto, ci sentiamo stasera, se coincide. Ciao a tutti, quel rettangolo per me, vai Giuseppe. Ehi, ciao Claudio, buona cosa del 144, dai, cosa lo fai? E ci sentiamo stasera, dai. Avanti Antonio Bombolo. Cappa, ciao Claudio, dai, ci sentiamo alle prossime, quando è stato. Ok. Antonio, Giotto, quartiere Lisponti, ciao Claudio, buona tecnica. Quartiere Lisponti in accelerazione verso l'ottava. Antonio, la ricotta. Per il buono. Lo fondo. Lo fornio. Confermo, confermo. D'accordo. Soia. Stavo disturbando la televisione? Ma dipende dalla centralina che c'è qua. Perché il mio quello è fatto, lo voleto qua, capito? Perché ci sono i cavetti tutti di tante buffi male, viso. Neanche la sistemo bene. La canna, eh? È l'amplificatore, mi ha detto, deve, capito? Devo diminuirlo un pochettino. La questione è, l'antenna era quasi la sottella, l'ho messa a tuo giorno, c'è un vento forte, cioè, non lo facevo in me, facevo io, capito, ho dovuto mettere l'altura del pesce inginocchiato, come se fossi pregando, quindi devo sistemarla meglio. Capo, ma come l'ho messo quella per la televisione? Due antenne a fila del pesce agganciato, una per la V e l'altra per la U. Una verticale alla orizzontale, puntate a Monte Oro. E si vede benissimo. Guardate, prima non vedevo proprio nulla, se non vedevo nulla. Non andava mai col segnale, ma adesso c'è un 94%. Il problema è che devo regolare la centralina e dove farlo? Uno deve stare a baracchino e poi mi avete il monito vicino alla centralina a fare la regolazione. Per andare bene. Ma è Gabaruccio. Ma la su si tanto in navai, scusa, se te lo chiedo. Ma che pizzeria sto usando io? Dico, che tanto è una tronda di visione, tu stai brudiata, Ma perché sono nuove? Ma se vedi, qua avevo pagato 8 euro come la bui com'è, quelle appena di pesce. No, ma va. Le sono buone, ma... Fanno V e U, tutti e due assieme fanno, capito? Basta che a posto di quella della centralina ci agganci un amplificatore, se c'è da B come l'ho visto, 30 di B, ci agganciamo quello e non usavo la centralina, invece ho usato la centralina con due antenne. Sai chi siamo pigliando una volta? Le antenne più buone che abbiamo usato per il televisore. L'ho usata anch'io quella lì, ma non dà tanto segnale. L'antenna più buona che ho usato del televisore io è questa qua. Questa è Fusaro, mi capisci, pigliano davvero. Ma vanno molto bene anche con la spina di pesce, perché non lo facendo storico, vedevo benissimo tutto. E non mi sto proprio mai con la televisione mia, figurati. Anche se l'antenna è a 2 metri più alta, c'è una manta lanciata con 4 radiali, di antenna di corti. E vedevo tutto da dove abitavo. Ma cioè, qua il problema, lo sai cos'è, Bonpoc, eh? Questa antenna non andava a salire perché l'ho provata, e te lo dico troppo, cioè troppo su garanzia, perché qua abbiamo polarizzazione verticale e polarizzazione orizzontale, e così che quello comporta molto, perché cioè, non prende bene il segnale, quelle antenne bipata non vanno bene qua per la tonalità, e non prendono bene per quei motivi lì, hai capito? Io l'ho già provata, lo so. Allora, l'ho dovuta, poi ho comprato questa qua, è una bomba. Ho comprato le VHF o UHF e va benissimo proprio. Ma io non devo andare a comprare le antenne al condominio gratis, non ho già compreso, il discorso è quello, no? 8 euro di una, l'altra me l'aveva regalata e quindi non se ne poteva manco lamentare, che nessuno ha pagato nulla qua. Lo so, ma se sennò... non è che l'ho pagato io qua, l'ho pagato 12 euro, funziona bene. Tu vada messo una scatoletta, altro 5 euro costeranno, e tu quella là costerà un'altra decina di euro. Però alla fine la qualità è molto migliore, cioè è completamente diversa, io l'ho già provata quella là, non vedi, una cagata. Ah, già sono tenute buone, c'era anche la tavola piazzata a casa sua e prende benissimo, l'ho portata l'altro giorno io, quella tua di pesce, quella cotta che vende ben come il pane 10 euro, 15 euro, non me lo ricordo. Al centro storico dove è lui che non fosse, non si vede, ripetuto del nord, si vede il primo benissimo. Poi come secondo, come è andata per una casa, che è stata la full alta di capito. E prende bene. E poi un amplificato vivo andrà da 15-20 euro, mi sembra che ha speso, che fa due ingressi U e un ingresso V. E poi c'è l'uscita per l'alimentazione. Poi io non mi sono trovato bene, per me era una cagata. Poi, non lo so. E comunque. Avanti Giuseppe Leonci, capo del partito. E capo, no, stavo ascoltando, nel momento stavo facendo una roba qua, della cosa della roba di pesca, capito? Che stavo attaccando, mi stavo legando gli ami, otto. Riprendete voi, dai, la riprendo fra 5 minuti. Ma capo, chi c'era? Antonio è arrivato così. Non c'era altro nessuno? Penso di no, sembra raccontare una cosa. Salerno, buon buon. Attenzione, Antonio, bomborino, bomborino, se questo sarà un vizio, cambio. Attenzione, Antonio. Auguri a tutti, cambio! Bam, jingle, all the way! On the fire with the fire, bam, bam, bam, bam, hey! Attenzione, binario 10, c'è qualcuno in ascolto, cambio! Attenzione, grandi modulatori del binario 10, c'è qualcuno in ascolto, cambio! Passo! Avanti, avanti, che parla?